5B. Ascolta e rispondi. Vuoi mandargli una lettera? Sì, voglio mandargliela. Vuoi dargli questa informazione? Sì, voglio dargliela. Vuoi illustrargli la situazione? Sì, voglio illustrargliela. Vuoi comunicargli la notizia? Sì, voglio comunicargliela. Devi spedirle dei soldi? Sì, devo spedirglieli. Devi farle dei lavori? Sì, devo farglieli. Devi darle dei libri? Sì, devo darglieli. Devi portarle dei dolci? Sì, devo portarglieli.